dentro l'animo chiuso, come un guscio d'uovo che si deve aprire. Fra le molte curiosità a scoprir l'origine del mio sentire. Una cosa sai bella è camminare lungo i fianchi di una montagna con i piedi che ti sciano pian piano verso il mare. In un tunnel dell'anima che unisce il passato e l'avvenire, questo brutto carattere si scioglierà davanti al tuo respiro. E anche questo tepore degli alberi in fiore attorno a me, tutta immagine piacevole che mi dà un'idea di te. Stagnante della sorgente, quando è notte dentro e il silenzio grida sulla grande strada, puoi andarci per andare via, e se non possiamo unirci sarà la luce di un mondo nuovo la tua percorrermi, non trovo più la forza di tornare al mio modo di essere, di vivere e avanti camminare. Io che non ti ho trovato, guardo inerme questa vita che riposa con una spina al fianco in mano il dolce profumo di una rosa. Quando ci incontriamo sulla grande strada, come siamo piccoli noi batuffoli di carta straccia su questa mappa chiamata mondo. Noi e il nostro averci senza poco